Allora, tu sei? Io mi chiamo Massimo, sono uno dei quattro apicoltori che ci sono qua stasera. Siamo quattro amici e facciamo parte ad Api Lombardia. Allora, apicoltore, come mai in Critical Wild e come mai, cioè, se ci vuoi spiegare appunto il rapporto, no, che avete con la terra, col territorio rispetto al lavoro e l'attività che svolgete? Sì, allora, noi siamo qua questa sera perché abbiamo sentito di questa iniziativa, ci è sembrata simpatica, insomma ci fa piacere rivalutare un po' il nostro territorio e avvicinare la gente ai nostri prodotti. E il nostro rapporto con la terra penso che sia il migliore, diciamo, è un po' pretenzioso, però dico, noi apicoltori non siamo dei produttori di miele, siamo dei raccoglitori di miele. Perché? Perché le api raccolgono senza squilibrare o alterare il territorio, raccolgono, portano a casa, e per cui noi, secondo me, siamo dei buoni promotori, insomma. Senti, dal punto di vista non solo di qualità ma anche dal punto di vista etico, che differenza c'è fra il tuo miele e quello che trovo al supermercato? Guarda, noi siamo un gruppo di amici, ci stiamo divertendo lavorando con le api, stiamo pensando di fare la svolta definitiva e di diventare apicoltori a tempo pieno, anzi lo stiamo già facendo, e diciamo che il rapporto insomma è piacevole, trovi soddisfazione in quello che fai. Io ho lavorato per anni in ufficio, insomma non è la stessa cosa, anche se qua torni a casa la sera sei stanco morto. Fai quello che ti piace. Fai quello che ti piace, ma tante volte fare quello che ti piace è anche fatica, eh. Tante volte dici, caspita, ma chi me l'ha fatto fare? Però poi non ti penti un minuto della scelta che hai fatto, perché è piacevole. Ti ringrazio, è stato un piacere, ciao.